di Radio Onda Rossa. Adesso ai nostri microfoni abbiamo in collegamento un compagno del centro sociale Anomalia di Palermo e lo abbiamo chiamato per parlare insieme a lui delle dichiarazioni di Renzi sul ponte sullo stretto. Ricordiamo che nella giornata di lunedì, dopo aver annunciato che il referendum sulla Costituzione si terrà il 4 dicembre, domenica 4 dicembre 2016, e dal palco allestito per i 110 anni di Impregilo, una delle aziende da sempre all'avanguardia nella devastazione dei territori che si dovrebbe occupare di costruzioni e di ingegneria, Renzi ha annunciato il ponte sullo stretto. Niente di nuovo, diciamo che pure su questo non è molto originale il nostro premier, visto che già ai tempi il buon vecchio Berlusconi si lanciava in proclami del genere, migliaia e migliaia di posti di lavoro grazie a una grande opera che secondo l'esecutivo sarebbe utile come il ponte sullo stretto. Renzi poi rilancia anche sui numeri perché dice 100.000 posti di lavoro, quindi dopo che le Olimpiadi sono saltate qui a Roma bisogna assicurare una nuova torta da sbranare per appunto l'appetito di aziende come la Impregilo, che sulla devastazione ambientale e sulle speculazioni dei nostri territori si arricchisce sulle spalle di tutti noi. Ma adesso andiamo a approfondire con il compagno di Palermo, il centro sociale Anomalia, compagni e compagni di Palermo che negli anni si sono sempre schierati contro il no ponte, e poi gli faremo anche qualche domanda sulla mobilitazione di domenica 2 ottobre a Niscemi contro il MUOS. Ciao, ci senti? Ciao a tutti, piacere sentirvi. Ciao, guarda, intanto appunto ti chiedo un commento sul ponte sullo stretto, sulle dichiarazioni del premier degli scorsi giorni, e anche provare a fare qualche passo indietro con te rispetto a quella che è la storia di questo ponte sullo stretto, che come dicevo nell'introduzione non è un'invenzione del premier Renzi, ma è una grande opera che viene sbandierata ormai da più di un decennio, se non di più, come soluzione per il Sud Italia, per la Calabria, per la Sicilia, per quelli che sono i collegamenti e i flussi economici. Intanto ti chiedo a te appunto di ripercorrere quella che è un po' la storia di questo ponte inesistente. Ma guarda, in realtà è già più di un quindicennio che si parla, ma non si parla soltanto in termini retorici, si parla fattivamente di questa questione, di questo fantomatico ponte sullo stretto. Siamo ai tempi del primo governo Berlusconi degli anni 2000. Da allora si è iniziato a lanciare questa proposta, dicevo fattivamente, perché al di là del carattere fortemente retorico da tutta Italia notato già negli anni e nel continuo rilancio di questa opera in termini mediatici, in realtà negli anni c'è stato qualcosa di molto più fattivo. Milioni e milioni sono stati spesi nella progettazione che è stata realizzata in qualche modo, anche se più volte cambiata, di questa devastante mega opera. E non è un caso, e infatti non ci stupisce l'uscita di ieri di Renzi, che in realtà negli anni, al di là del presunto abbandono del progetto che i governi successivi a quello Berlusconi hanno più volte annunciato, in realtà la società Ponte sullo Stretto è stata mantenuta in vita in questi anni con soldi pubblici, con fondi pubblici e con consulenze altissime, elevatissime. Non dimentichiamo che pochi anni fa sono state realizzate anche dei piccoli cantieri per la realizzazione di opere accessorie, in particolare stradali in Calabria, e che si era iniziato anni fa con la politica degli espropri dei terreni invece sul fronte messinese dell'opera. Insomma, un investimento di Stato, e parliamo in totale di centinaia di milioni di euro, è stato negli anni realizzato. Ci sarebbe piaciuto come dire che la sortita di ieri di Renzi in qualche modo ci stupiva o ci riportava al passato. In realtà appunto questo tipo di scelta di mantenimento in piedi di questo carrozzone pubblico negli anni ci ha sempre fatto pensare che prima o poi questo nuovo governo democratico si sarebbe tirato fuori di nuovo questa fantomatica proposta. Insomma, la questione non stupisce noi, non stupisce i compagni calabresi, non stupisce le realtà sociali che negli anni si sono mobilitate contro il ponte, mobilitazioni che tanti anni fa hanno visto la realizzazione di grandi manifestazioni, che di campeggi e di momenti di lotta proprio nei luoghi in cui queste opere dovevano essere iniziate a realizzare. Siamo di fronte insomma all'ennesimo tentativo di rilancio di questo drenaggio, perché di altro non parliamo, di fondi pubblici verso privati e grandi imprese, grandi capitali nazionali, e non soltanto. Parlavi di Impregilo, insomma sappiamo tutti quanto questa impresa insieme alla CMC siano le due imprese che hanno le mani in pasta in tutte le grandi opere che riguardano il territorio nazionale. E quando parliamo di grandi opere, dicevi bene, parliamo tendenzialmente di devastazione dei territori, di negazione di ogni principio di autodeterminazione di questi, di imposizione di modelli di sviluppo totalmente tossici in termini sociali, economici e ambientali. Questa è la storia delle grandi opere in questo paese. Quando si parla di grandi opere al mezzogiorno, al sud, in Sicilia, in Calabria, insomma c'è tanto altro da aggiungere, perché siamo di fronte ormai a una politica decennale di sfruttamento intensivo dei nostri territori, oltre che di campagne mediatiche che non fanno altro che riproporre sempre e comunque le stesse logiche. Parlavi dei 100.000 posti di lavoro, davvero una battuta che gira in queste ore sui social network, che è quella di un Berlusconi che dovrebbe chiedere il copyright a Renzi su questo tipo di dichiarazioni, è più che mai tristemente reale. Berlusconi usava la retorica dei 100.000 posti di lavoro qualsiasi iniziativa portasse avanti, ecco che Renzi si conferma tristemente in totale prosecuzione di questo tipo di logiche. Sì, è interessante anche secondo me guardare il momento in cui escono fuori queste dichiarazioni. Intanto, se non ricordo male, non è la prima volta che si torna a parlare di Ponte sullo Stretto da la parte opposta a Silvio Berlusconi, che dovrebbe essere, diciamo, il Partito Democratico. Come ci raccontavi tu, che sicuramente, diciamo, voi in Sicilia vi tenete sempre più informati su questo tipo di speculazione, mentre no, da queste parti ce ne abbiamo talmente tante che quando non se ne parla sui media mainstream magari perdiamo un po' il filo del discorso, e sono continuate ad andare avanti delle paraopere per sondare la possibilità o meno di questa opera. Detto ciò, è interessante il momento in cui arriva questo annuncio, al di là del luogo, no, i 110 anni dell'Impregilo, ma anche una scelta che arriva all'indomani di quella che è la grande partita del governo Renzi, il referendum costituzionale, secondo il quale, in caso di sconfitta, questo esecutivo andrebbe a casa, il che rende tutto molto più interessante. E Renzi continua in qualche modo a polarizzare questa partita, secondo me, mettendoci sul piatto dopo le Olimpiadi un'altra grande opera come il ponte sullo Stretto, e rilancia sul mercato del lavoro, perché è questo il metodo con il quale provano a far passare all'interno dell'opinione pubblica l'utilità di questa opera, quindi la possibilità per le migliaia e migliaia di giovani, e non solo, che in Calabria, in Sicilia oggi vivono il dramma della disoccupazione, di poter avere un lavoro e partecipare anche loro insieme alle grandi aziende, alla distruzione del vostro territorio. Quindi gli do anche un commento su più in generale, anche sulla fase che secondo voi attraversa questo esecutivo, e su anche il momento preciso in cui riparte questa sfida. Ma guarda, dicevi benissimo, sarebbe veramente ingenuo, sintomatico di paraocchi il non ricollegare le dichiarazioni di ieri a un'analisi di fase rispetto allo stato di salute di questo esecutivo e in generale del consenso che il Partito Democratico e Renzi possono, tra virgolette, vantare in questo momento nel paese. All'indomani, come dicevi tu, dell'annuncio della data referendaria, a fronte di una sparizione di una potenziale torta economica quale poteva essere l'operazione Olimpiade su Roma. Renzi, fondamentalmente, con la dichiarazione di ieri, se fosse stato necessario, e non lo era, ha in qualche modo dichiarato ancora una volta una scelta di campo. Se sul fronte sociale lo stato di salute di questo governo è pessimo, il consenso ormai, la credibilità di questo governo non esiste praticamente più, l'unica possibilità di sopravvivenza di Renzi in questo momento è quello di appoggiarsi ai grandi capitali che l'hanno sempre sostenuto. Paradossalmente siamo di fronte a una situazione in cui persino il primo Berlusconi, che di grandi capitali se ne intendeva ed era interno in qualche modo a quel mondo, Renzi invece è stato lì messo da questi stessi capitali, a cui in qualche modo deve riuscire a dare risposta. L'operazione Ponte sullo Stretto è una grandissima operazione di potenziale di speculazione. In un momento come questo fare una scelta di campo vuol dire tentare di cercare alleanze in quel mondo, su quel fronte della barricata. Ovviamente poi si usano strumenti retorici, come dicevi bene, quali quelli della promessa di posti di lavoro. È ovvio che lì il compito nostro, ma in realtà diciamocelo chiaramente, si svela ormai quasi da sé. Poi attenzione, tocca a noi continuare a rendere più chiaro possibile questa dimensione. Siamo di fronte a un investimento di milioni di euro su delle regioni, Calabria, Sicilia, in generale il Mezzogiorno, in cui quegli stessi fondi pubblici potrebbero essere utilizzati in termini di servizi sociali, in termini di costruzione di infrastrutture basilari che sono ancora assenti, incredibilmente assenti nel 2016, e questo governo invita a dimenticarci facilmente di quello che è successo a Pone appena pochissime settimane fa in Puglia, a proposito diciamo delle condizioni in cui versa il sistema dei trasporti, in quel caso della rete ferroviaria al Mezzogiorno, per non parlare di una Sicilia in cui, o di un territorio quale quello di Messina, in cui ad ogni pioggia il dissesto generale a cui è stato sottoposto quel territorio provoca frane, morte e distruzioni. Siamo di fronte a una Sicilia in cui in alcuni territori ancora manca arriva l'acqua potabile, e poi ci sentiamo dire che l'unica possibilità di costruire lavoro sarebbe quello di regalare questi miliardi a queste imprese. Ovviamente siamo ancora di fronte a un'idea di sviluppo che è un'idea folle, un'idea che va contro ogni principio e ogni logica di sviluppo di altro tipo, di alternativa di sviluppo di altro tipo ai territori. Il nostro compito è ovviamente provare ad affermarne un'altra. Su questa questione del ponte sullo stretto, insomma, commentavamo ieri, quasi vorremmo che che Renzi dicesse sul serio in questo momento, perché l'ennesimo fronte dell'opposizione sociale che si aprirebbe a questa opera, a questo progetto, evidentemente parlerebbe di una rabbia generale che questo governo ha costruito attorno a sé. Siamo di fronte alle barzellette, insomma. Ora si sta aprendo l'autunno del no sociale, sabato ci sarà questa importantissima assemblea a Roma, a cui invitiamo tutti a partecipare. Noi da Palermo ci stiamo mobilitando per esserci. Si apre una fase delicatissima per questo governo. Ora, se Renzi cerca alleati in quel mondo, il mondo che da sempre combattiamo, della speculazione, del grande capitale, delle grandi opere, tocca a noi rilanciare invece il fronte opposto, quello di una posizione sociale conflittuale e che sappia massificarsi in un'ottica, come dire, di immediata precipitazione della crisi che sta vivendo questo esecutivo e in generale la classe politica attualmente al governo. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un governo che appena poche settimane fa a Catania festeggiava la sua data nazionale, e nel momento in cui fuori le contestazioni si proponevano in maniera reale, conflittuale, in cui i soggetti sociali si assumevano la responsabilità di aprire quest'autunno dell'opposizione sociale, all'interno di quella festa militarizzata c'erano appena pochissime centinaia di persone ad ascoltare questo pagliaccio fiorentino. Insomma, tocca a noi acuire in questo momento questa crisi. Il fatto che Renzi usi la carta del ponte sullo Stretto ci dimostra quanto in qualche modo sia alla frutta, e penso che inizi ad averne seriamente coscienza. La fase è quella che ci offre delle possibilità, tocca a noi coglierle. Io ti ringrazio per questa corrispondenza, per questo contributo. Sono molto d'accordo appunto con la descrizione che facevi anche dei problemi che si ritrova oggi ad affrontare questo esecutivo e sulle possibilità che si celano dietro il rilancio di una grande opera come il Ponte sullo Stretto, ma anche più in generale dietro alle condizioni di governo che abbiamo oggi. Io, come annunciavo nell'introduzione, ti chiedo anche di introdurci a quella che sarà la mobilitazione di domenica 2 ottobre alle ore 15, dove partirà una manifestazione No Muos dal presidio nella sughereta di Niscemi. Ovviamente abbiamo sempre dato spazio a questa lotta contro le antenne del Muos, uno strumento che serve alla guerra, a quella guerra che oggi devasta il Medio Oriente e tante altre parti del mondo, una guerra che sicuramente non è la nostra e che in qualche modo però ci entra a casa anche in maniera particolare, anche attraverso l'installazione di antenne come quelle del Nuos. Voi come compagni di Palermo da sempre seguite questa mobilitazione in quel di Niscemi. Ti chiedo qualche battuta per invitare i radioascoltatori, chi si trova in Sicilia o chi si troverà nei prossimi giorni, per partecipare a questo momento di lotta. Sì, velocissimamente, il movimento No Muos da Niscemi ha lanciato questo appello alla mobilitazione appunto questa domenica 2 ottobre. Il momento che vive questo movimento è un momento delicato, in cui è importante in questa fase più che mai provare ad affermare una presenza reale dal canto nostro, insomma, di tutte le realtà, di tutti i siciliani e non solo, chiunque si trovi in Sicilia. Ci auguriamo di poter dare il maggior contributo possibile a questa causa. Dice, in una fase in cui la guerra silenziosa va avanti producendo devastazione in tutto il mondo, il Muos, come le basi militari presenti su tutto il territorio siciliano, Sigonella, Birgi, rappresenta uno strumento quanto mai fondamentale appunto per la prosecuzione, per la realizzazione di queste politiche di guerra. Stare al fianco degli attivisti e dei militanti del movimento No Muos in questo momento è più che mai necessario, è più che mai utile. Il fronte dei ricorsi legali in questo momento ha svelato una debolezza in generale dello strumento, nel momento in cui ci si prova a opporre a interessi così enormi come quelli che stanno dietro la realizzazione e il completamento di quest'opera. Allora serve tornare a dar voce alla mobilitazione reale, popolare, dei siciliani stanchi di vedersi imposte queste politiche di guerra, di devastazione ambientale, anche di attacco alla salute che stanno dietro una così nociva opera. E allora l'appello è intanto appunto a tutti i siciliani, a tutte le siciliane, a mobilitarsi in sostegno di questo momento, in generale di questo movimento. Ci auguriamo che la tappa di domenica rappresenti un momento di rilancio di una ferma opposizione territoriale, palpabile e reale in quel di Niscemi. Noi dal canto nostro appunto ci stiamo organizzando, in particolare sul fronte studentesco, universitari e studenti delle scuole si stanno mobilitando per portare più persone possibili con i pullman a Niscemi. Quindi l'appello da parte nostra è quella a contribuire a portare lì un contributo reale, scusate il gioco di parole, ma è così, è questa la necessità. Quindi insomma l'appello è a essere presenti in due lì a Niscemi per provare a rilanciare questo movimento.